versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon venerdì di 21 di febbraio, siamo in diretta a 16.36 e 15 secondi. Molti, alcuni di voi, insomma immagino un po', sì, gli altri, quelli che stanno lavorando, un saluto a loro, sicuramente meno e probabilmente no, ma insomma sanno che nel frattempo il Presidente del Consiglio incaricato è arrivato al Quirinale da Giorgio Napolitano per presentargli la lista dei ministri. È un po' in ritardo la cosa, perché io sapevo che la lista doveva essere consegnata al Capo dello Stato tra le 12 e le 13 di oggi, per arrivare poi alle ore 16 all'ok. Sapete che viviamo da qualche anno in un regime nel quale la cernita nel corso della formazione del governo, prima, durante, ma anche dopo, la lista consegnata da parte del Capo dello Stato è molto severa, e Renzi è arrivato pochissimi minuti fa, quindi il ritardo c'è stato, quindi ci saranno stati cambiamenti, spostamenti fino all'ultimo minuto nella composizione del governo. E quello che vi dico è che se l'incontro al Capo dello Stato fosse brevissimo nel corso di questa trasmissione, ovviamente potete restare a questa radio, perché vi diamo poi la diretta con i servizi giornalistici della Giornale Radio di qui di Radio 24, quindi non temete e non abbandonateci nel frattempo. È appena cominciato, quindi passa un po' di tempo. L'unica cosa che voglio dirvi è che si dà per ragionevolmente certo oramai che il Ministro dell'Economia sia Pier Carlo Padoan, quindi un tecnico, era tornato dall'Italia, da Washington, per diventare da pochissimo presidente dell'Istat, ed era stato bocciato al primo esame in Parlamento per un incidente parlamentare. Pier Carlo Padoan è stato molti anni al Fondo Monetario Internazionale, fin da giovane, quando si è formato la Sapienza, ha insegnato la Sapienza, tutti sapevano che era di sinistra, votava PC, è stato consigliere economico con i governi di sinistra, D'Alema e Amato, prima di D'Alema, a Palazzo Chigi. Quando nel 2010 Giuliano Amato propose una patrimoniale patriottica per l'Italia, subito da Washington intervistato per Carlo Padoan disse che lui era assolutamente favorevole, e è stato anche alla Fondazione Italiani Europei di D'Alema, quindi è un tecnico, per anni al Fondo Monetario, poi all'Ocse varò il progetto dell'Ocse per energie rinnovabili. Però insomma è di una chiara parte politica, è un tecnico apprezzatissimo. Non è passata la linea di Renzi, se così davvero fosse confermato, di avere un ministro dell'economia politico del PD, e tutti sapevamo che era l'indicazione quella Delrio. Delrio però non sa l'inglese e quindi è poco noto, anzi sconosciuto, in Ecofin, a Parigi, a Berlino, a Washington, e quindi il Quirinale si è molto battuto per avere un ministro invece che ha queste caratteristiche, ma ripeto che ha una caratteristica anche politica bella, bella chiara, ed è anche per la patrimoniale. Vedremo tra qualche tempo, appena uscirà il Presidente del Consiglio e ci darà la lista, ma intanto veniamo al tema del giorno. E se volete telefonateci, fatelo soprattutto se siete ascoltatori dalla Sicilia, ma anche dal resto d'Italia. Se avete delle opinioni da darci su come viene amministrata la formazione professionale, che lo ricordo a tutti è di competenza regionale, nelle diverse regioni, e ci sono un mucchio di indagini in corso in tutta Italia ricorrenti su come, sulla rendicontazione mancata della formazione professionale che viene fatta spesso con amici degli amici e così via. In Sicilia, che è un punto dolente della finanza pubblica nazionale, ieri la nostra attenzione è andata alla notizia di ciò che sta facendo l'assessore competente, l'assessore che si chiama Nelly Scilabra, e noi gli abbiamo chiesto di spiegarcelo qua ai nostri microfoni, perché non è vero che la politica è sempre solo incapacità, opacità, eccetera eccetera. L'assessore ha intrapreso una battaglia di trasparenza sulle cifre, è andato a chiedere all'amministrazione come mai quello che era stato stabilito da anni non si faceva alla Regione Sicilia, e ha scoperto e ha reso pubbliche tutta una serie di cose che secondo me valgono la pena di farne un esempio, o comunque di rendergliene grazie e di consentire di spiegarlo non solo ai siciliani ma a tutti noi. Quindi buon pomeriggio e grazie all'assessore Nelly Scilabra di essere qui con noi. Buon pomeriggio. Allora, lei quando ha preso l'incarico di assessore? A novembre 2012, l'anno scorso. L'anno scorso. Subito dopo le elezioni regionali. Sì, e che situazione ha trovato? Stanziamenti, numero dei formatori, spese? Che situazione ha trovato, in poche parole? Beh, la situazione era possiamo dire disastrosa, ecco, nel senso che il settore della formazione in Sicilia era un settore molto politicizzato, ecco, diciamolo così, e un settore dove in passato si è fatto molto clientelismo. Basti dire che i dipendenti del settore, però comunque dipendenti degli enti di formazione assunti al 2008, sono all'incirca 8.003. Dico il 2008 perché in quella data, in quell'anno poi si è fatto, diciamo, un blocco delle assunzioni che in verità non è poi proprio stato rispettato, perché gli enti comunque hanno continuato ad assumere anche all'indomani di questo blocco. Cominciamo da questo: perché un blocco deliberato, evidentemente perché si considerava che già fossero troppi rispetto ai soldi i formatori di allora, è stato aggirato? Come è stato possibile e perché numerosità di persone aggiuntive? Allora, noi abbiamo calcolato che dopo il 2008 all'incirca abbiamo altri 4.000 operatori. C'è da fare una precisazione: gli assunti al 2008 sono tutti a tempo indeterminato, sì. Invece dopo il 2008 sono invece a tempo determinato, perché appunto c'era stato questo blocco. E il fatto che in questo settore ci fossero state tutte queste assunzioni fa capire appunto che era un settore dove la politica, diciamo, l'ha fatta da padrone, ecco. E naturalmente la politica, accendendo contratti a tempo determinato, mi consenta di dire, quindi precari, accende l'ipotesi da parte loro che a un certo punto vengano regolarmente assunti, magari in cambio di qualche botarello, certo. Di qualche anche è ovvio, sì, che funziona così. Ci sono delle indagini che anche quest'anno appunto sono emerse, che poi dimostrano appunto questo, dove dietro niente spesso ci sono stati dei politici, ecco. E allora a quel punto, di fronte a questa scoperta, presa d'atto per così dire, di questi aggiuntivi, lei cosa ha deciso di fare come assessore? E di fronte alle decisioni che iniziava a prendere, che atmosfera politica si è creata attorno a lei in giunta, nell'assessorato e così via? Sì, partiamo dal presupposto che, diciamo, il fatto che il settore della formazione in Sicilia fosse così lo sapevano tutti. Esatto. Ecco, non è una cosa che ho scoperto io o il presidente Crocetta, però è anche vero che nessuno appunto si era aveva provato, ecco, a risolvere questa questione, ad aprire, ecco, il vaso di Pandora. Perché ricordiamolo, se facciamo un paragone, in Sicilia gli 8.300 del 2008, poi ce ne sono aggiunti altri 4.000, se prendiamo il paragone un'altra regione sud, la Puglia, non piccola, in Puglia sono 800 in tutto. Sì, ecco. Ma i numeri sono più o meno questi, cioè la Puglia in teoria è una delle regioni che ha anche un alto numero, se poi andiamo in Lombardia sono anche molti, molti meno, ecco, esatto, dicendo, esattamente, le altre regioni. Esattamente. Ma succede questo, noi arriviamo qui, appunto, diciamo, era una cosa che era già nel programma elettorale appunto del presidente Crocetta, quella di mettere mano alla formazione, e poi arrivo io dopo un mese dalle elezioni, diciamo un po' giovane e incosciente, ecco, e non mi sono tirata indietro nemmeno per un secondo. Noi abbiamo cominciato perché lei tira fuori questa cosa che sui giornali le viene spesso appiccicata. Io di solito non faccio mai caso all'età, però gliela appiccicano perché dice: ma ha solo 30 anni l'assessore, e per di più pure donna, queste cose contano ancora, purtroppo. Sì, contano molto, assolutamente, diciamo che è ovvio che ci sono dei pregiudizi per i giovani in politica e soprattutto per le donne. Io ero una rappresentante degli studenti, ero stata, diciamo, a capo della... Lei è stata eletta per il PD alle regionali, no? No, io non sono eletta come deputato regionale. Non lo sapevo. La giunta del presidente Crocetta è una giunta tecnica. Non lo sapevo, diciamo, ha ragione a ricordarmelo, colpa mia. Sì. No, io ero, diciamo, una rappresentante all'università, ero in senato accademico, diciamo, ero molto conosciuta, ecco, per essere stata alla testa della protesta contro la riforma Gelmini, e il presidente, diciamo, mi ha nominato in questo assessorato così particolare anche per rompere con quelli che erano le logiche e gli schemi del passato. Cioè, diciamo che, insomma, visto che lei si era impegnata da parte degli studenti, non era sospettabile di volere una formazione per chi ci lavora invece per chi dovrebbe essere offerta, ecco, questo è il punto di vista. Sì, ecco, perfetto, una formazione a misura di giovane, ecco, è quello che stiamo provando a costruire. Quando lei ha iniziato a dire, ma insomma facciamo un po' di pulizia eccetera eccetera, in assessorato cosa è successo? Il caos, detto, diciamo, usando un termine tanto amato da Pirandello, ecco. Noi siamo arrivati dopo 30 giorni, ho avviato le rotazioni nel mio assessorato, nel senso che ho spostato ben 70 funzionari. perché dopo aver fatto un monitoraggio ci eravamo anche accorti, anche lì poi ci sono state comunque indagini della magistratura, che molto spesso, diciamo, i funzionari stessi avevano dei ruoli un po' ambigui nel settore della formazione. Diciamo che quindi i funzionari facevano da sportello diretto verso gli enti, ecco. Sì, ecco, diciamo, io la dico in maniera che l'assessore non può dire, ma di solito, ecco, purtroppo non è così anomalo per una formazione in cui la domanda che le farò dopo i 60 secondi che adesso dobbiamo fare un po' in ritardo di informazione stradale riguarda che opinione si è fatta del ruolo dei sindacati nella formazione della regione e in particolare di quelli siciliani. Non voglio le sigle, però insomma, siccome tutti sappiamo che questo è uno delle pertinenze oramai sindacale, vorrei sapere un suo giudizio su questo. Intanto, strada. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:47 primi 57 secondi. Renzi è sempre dal capo dello Stato. Vi ripeto che quando se uscirà, anche se sarà dopo le 17 magari, state su questa rete perché con il servizio giornalista del giornale Radio Radio 24 facciamo una diretta, quindi sentirete in diretta sulla nostra rete le parole del Presidente del Consiglio che annuncia il governo alla sua conferenza stampa e poi servizi a seguire in diretta per tutta la fascia pomeridiana nel proseguo delle nostre trasmissioni in quella di Barisoni e così via. Quindi non mollate Radio 24 perché siamo pronti non appena si sa qualche cosa, ovviamente, perché sono un pochino in ritardo. Pillole, perché molti mi chiedono un giudizio su Padoan. È un tecnico molto competente, vi ho detto qual è la sua dichiarata simpatia politica, vi ho ricordato che si è espresso più volte pubblicamente in interviste, le trovate Repubblica, Corriere della Sera 2010-2011 per la patrimoniale, si è battuto pubblicamente contro la riforma dell'IMU prima casa, più volte disse che era una priorità sbagliata, questo sapete che lo penso anch'io esattamente così, perché bisogna abbassare le imposte sul lavoro e sulle imprese che sono quelle che strozzano la crisi. Insomma, è un tecnico, è molto competente, però ha una chiarissima appartenenza politica, è stato consigliere economico di D'Alema e di Giuliano Amato alla presidenza del Consiglio, quindi questo è quello che vi posso dire. È molto apprezzato in sede internazionale, fortissimamente voluto dal capo dello Stato. Abbiamo, ripeto, con noi l'assessore Nelly Cilabra, stiamo parlando della sua importante missione in Sicilia, visto che è assessore all'istruzione e alla formazione professionale. Ci ha spiegato la situazione che ha trovato: 4.000 in più presi a tempo indeterminato dopo il 2008, quando c'era stato lo stop agli 8.300, che pure sono 10 volte più di quelli della Puglia, quindi proporzione moltiplicata rispetto alle altre regioni italiane. E dopo esserci fatto spiegare che ha ruotato 70 dirigenti per troncare un po' di impropri rapporti, la domanda è: quanto sindacato improprio c'è in questa maniera di amministrare la formazione professionale che va avanti da decenni in Sicilia, assessore? Beh, allora diciamo che i sindacati in verità si erano un po' appiattiti forse negli ultimi anni, anche per le ingerenze, ripeto, dei poteri forti in questo settore. Inizialmente diciamo che ci siamo guardati con un po' di perplessità, ecco, ma oggi diciamo che comunque condividono molto quella che è l'azione del governo, anche perché tutto sommato loro auspicavano una riforma del settore già da anni, quindi diciamo che sono dalla nostra parte, ecco, con alcune incomprensioni iniziali, ma tutto sommato adesso ci siamo capiti. Quanti erano gli enti accreditati per fare la formazione professionale nel sistema Regione Sicilia? 2000. Sì, io a giugno ho avviato la riforma dell'accreditamento e ad oggi gli enti accreditati sono invece solo 600, perché abbiamo irrigidito molto appunto i criteri: dovevano avere delle sedi adeguate, dovevano occuparsi solo di formazione e dovevano avere soprattutto dovevano avere qualità, ecco. E perché l'amministrazione in precedenza dava in anticipo e regava a questi 2000 enti l'80% delle richieste che gli enti avanzavano? Quindi in buona sostanza era un meccanismo di affidamento personale più che un rendiconto ex post verificando gli standard della qualità dell'offerta e così via. Beh, una domanda che mi sono fatta pure io in verità. Consideriamo che la formazione in Sicilia è costata all'incirca 400 milioni all'anno su tutti i settori, ogni settore della formazione. Io già soltanto quest'anno l'ho ridotta a 220 quindi ho fatto un taglio consistente, garantendo comunque tutto il personale ad oggi, perché comunque noi continuiamo a garantire questi 8.300 assunti entro il 2008. E se dovessimo fare un paragone, voglio dire, sul costo orario di formazione in Sicilia rispetto a quello delle altre regioni? Beh, indubbiamente il nostro è uno dei più alti, anche in quello noi stiamo preparando ormai da mesi una legge dell'intero settore dove appunto andremo anche ad affrontare il tema del costo standard. Diciamo che ecco, in passato io poi a maggio, oltre appunto all'accreditamento, la riforma dell'accreditamento, abbiamo avviato anche questo progetto di quella che è l'offerta formativa, ecco, della nostra regione, perché in passato funzionava che l'ente decideva in totale libertà per fare un corso di estetista piuttosto che un corso per esperti nelle energie rinnovabili, e invece da oggi l'amministrazione, la regione, riacquista questo ruolo ed è l'amministrazione che sente le associazioni di categoria, sente le scuole, sente le università ed elabora l'offerta formativa demandandola agli enti di formazione. Invece in passato era al contrario. Era al contrario. Se posso un'altra cosa, sì. Io a marzo ho convocato questo tavolo appunto per avviare la riforma, dove ho fatto sedere per la prima volta gli enti di formazione, le associazioni di categoria, le scuole e l'università, soggetti che per la prima volta non avevano mai parlato. Pazzesco, vabbè, mi lasci dire che è pazzesco. Senta, no, condivido. No, la formazione, scuola e università che non parlano questa della formazione si commenta da solo, ecco, per così dire. Un punto delicato di solito, per un politico che deve fare pulizia, come nel suo caso, quando abbiamo visto quanti erano, 2.000, e quanti sono rimasti gli accreditati, cioè ce n'è rimasto uno su tre, meno. Allora, il problema è che molto spesso il mancato riaccreditamento è perché emergono irregolarità molto gravi e in taluni casi violazioni di legge. In quel caso il capo dell'amministrazione, il responsabile politico, cioè lei, che cosa ha deciso di fare? Di girare anche alla procura? Ovviamente sì. Ecco, allora partiamo dal presupposto che anche le indagini che sono partite ci dimostrano che molti di questi enti erano enti fantasma. Uno. Due, noi quest'anno abbiamo anche fatto una cosa che era insolita per questa amministrazione. Quando dice molti di questi enti, è in grado di far capire un po' a chi è a casa, cioè quanti esistevano solo sulla carta di questi 2.000? 700. 700 su 2.000! Vabbè. Va bene. Consideriamo anche che noi quest'anno abbiamo riscontrato delle irregolarità e le abbiamo riscontrate, abbiamo utilizzato uno strumento che non era mai stato utilizzato, cioè la revoca dell'accreditamento, certo. Era una cosa anche questa in teoria che doveva essere scontata. Ove un ente dimostra di non essere affidabile per gestire, ecco, quelli che sono i fondi pubblici, andava revocato. Allora, 700 fantasma. E quindi lei a quel punto ha dovuto dire, in taluni casi istruendo anche gli funzionari, i dirigenti, che non so quanto fossero stupiti di queste istruzioni, dicendo alcune cose le dobbiamo segnalare per forza perché sono violazioni di legge, no? Sì, io ho mandato delle ispezioni a tappeto a gennaio, appena siamo arrivati, per molti mesi noi le sono arrivate delle minacce per questo, se posso chiedere. Guardi, sinceramente no, non è la cosa che mi preoccupa di più, ecco. Come la cosa che mi preoccupa di più? Il silenzio per vedere quanto va avanti. Senta, il nostro tempo è finito, assessore, io le posso dire solo grazie a nome di tutti quelli che quando vedono giovane donne, un politico, non mi interessa se è giovane o no, un politico che caccia 2 su 3 degli accreditati e dice che 1 su 3 non esisteva, no? Capite? Ecco, c'è bisogno di gente così, non mi interessa il colore della giunta, c'è bisogno di gente così, a cominciare dalla Sicilia che sta messa come sta messa. Continuate su Radio 24, appuntamento a lunedì con me. We'll be right back.